La povera signora Augustine Leblanc si era spenta dolcemente nel sonno nella sua grande e bella casa di Troyes, dove aveva vanamente atteso quei parigini tanto allegri che non erano mai venuti a trovarla. L'improvvisa scomparsa della vecchia signora, la cui simpatica apparizione si era materializzata una sola volta all'interno della società Maschere e Bergamaschi, sotto le sembianze di una madrina di passaggio a cui si fa l'obolo di lasciar tagliare la torta, ne aveva peraltro scosso le strutture da cima a fondo. In effetti, contrariamente a ciò che si era creduto per tanto tempo a proposito del finanziamento della società, non era stato Tintin a sganciare i soldi, bensì la signora Tintin. In questi termini, un tantino brutali, Nicola aveva riassunto per Maddy il contenuto della conversazione appena avuta con l'avvocato du Bateau-Ripois, il quale l'aveva chiamata da Troyes. Il legale aveva accompagnato Liliane e Roger Ziegler, davanti ai quali era stato aperto il testamento della defunta, il cui funerale era previsto per l'indomani. Dopo qualche considerazione sul crudele dolore che li colpiva tutti a Maschere, l'avvocato du Bateau-Ripois aveva tenuto a ricordare che lui era non solo il consigliere legale della ditta, ma in primo luogo il consulente della famiglia Ziegler-Leblanc e di conseguenza quello degli eredi. Nella fattispecie di Lillian Ziegler, ormai proprietaria della ditta a metà con il padre, l'altro unico erede della signora Leblanc. Ma avremo tutto il tempo di parlarne domani. Copritevi bene, la cattedrale sarà glaciale, aveva consigliato l'avvocato prima di riattaccare. Maddy era in piena prova quando Nicole andò a farle il riassunto della nuova situazione. La signorina Agnès le aveva rapidamente messo insieme un completo nero la cui sobrietà si addiceva a un'amica di famiglia, ma la cui eleganza le evitava di essere confusa con un membro della famiglia. I veli saranno per dopo, disse Nicole, guardando Maddy nello specchio dritto negli occhi. Sentendosi pronunciare quell'insolita frase che non aveva premeditato e che le era sfuggita, Nicole non sarebbe stata assolutamente in grado di dire se aveva voluto parlare dei veli di una sposa o di quelli di una futura vedova. Maddy non aveva risposto, ma la signorina Agnès aveva sorriso scuotendo il capo, in un modo che rivelava al tempo stesso la sottigliezza del suo intendimento e le profonde radici delle complicità e dei segreti che legavano tra loro le tre donne quando si credevano sole. Non lo erano. Alex, che era passato a prendere il suo foglio di viaggio per il pellegrinaggio a Troyes, come aveva detto, si trovava ancora nei paraggi mentre tutti lo credevano uscito. Aveva visto e sentito tutto e si fece vedere. Si copra bene, caro Alex. Pare che farà molto freddo laggiù domani, disse Nicole, più Victoria Jean che mai. Alex non rispose subito. Le considerò tutte e tre: Maddy, che aveva molto amato, Nicole, che l'aveva assai divertito, e la signorina Agnès, che trovava mortalmente noiosa. A ciascuna avrebbe potuto dire qualcosa di tenero, di spiritoso o di cattivo. Non riusciva più a dissociarle. Davanti a lui aveva un gruppo, una setta, un'organizzazione, un piccolo esercito che si preparava per un assalto. Non voleva avere più niente a che fare con quella gente, si disse, cercando con quale formula annunciare che se ne andava. E lui, di solito così brillante, si negò il lusso dell'umorismo. Non prenderò freddo perché non verrò. Vi lascio, signore, non faccio più parte della casa. Passando dal vestibolo, si concesse il tempo di ricentrare l'uovo di Fabergé sotto il globo di vetro leggermente spostato a sinistra. Te ti rimpiangerò, disse con affetto all'uovo. Poi varcò la soglia di Maschere e Bergamaschi, di cui si richiuse delicatamente la porta alle spalle. Tra le stazioni Georges V e Pirenè, Alex fece il bilancio degli anni sui quali aveva richiuso la porta. Il bilancio professionale si riassumeva in una sola parola, le cui quattro sillabe si adattavano perfettamente ai diversi ritmi suggeriti dal rotolio del vagone. In pratica, la parola coglionate conveniva a tutte le cadenze, martellata a scatti quando la velocità era al massimo o allungata in sospiri durante la lenta apertura delle porte alle fermate. Coglionate. Solo coglionate, da quella coglionata dei Depossédé che gli aveva fatto mettere il dito nell'ingranaggio della coglioneria e gli avevano preso il braccio. Si era fuorviato, si era sviato, fuorviato nelle perle, trine, ricami e cannoncini, fronzoli e piume, alamari e broccati, sviato con operette stupide, drammi villerecci folcloristici, false grandi commedie, melodrammi borghesi e riviste pornocosmografiche, come quella pretenziosa scemenza, quella scempiaggine lunare che aveva avuto un tale successo da essere ora a Londra. Il mio regno per un cavallo, diceva quell'altro coglione, io dirò tutti i miei successi bidoni per un fiasco. Ma con Pitof, ancora Merletti, ma per Chekhov, crinoline forse, ma per Batì, donnine nude perché no, ma per Aristofane. Ecco che cosa pensava Alex, guardando la gente salire e scendere come non l'aveva più guardata da un bel pezzo, da quella coglionata dei depossedè in pratica. Si mise a ridere da solo, immaginandosi una tizia che saliva alla stazione successiva con il famoso vestito con i lustrini e trascinandosi dietro lo zibellino come un grosso cagnolino. Era questa la coglioneria. Aveva perso l'abitudine di guardare i suoi contemporanei perché i contemporanei che gli facevano vestire non prendevano mai il metrò, non facevano le pulizie né la spesa né veramente l'amore né le ore di ufficio né figli non desiderati. I contemporanei che aveva dovuto travestire non erano i contemporanei di nessuno, erano figurini di moda a cui non mancava un solo bottone da smoking. Gli piacque l'immagine del bottone, si mise a recensire i particolari dell'abbigliamento dei suoi contemporanei ritrovati. C'erano orli di manica sfilacciati e pareggiati con le forbici, molto più aggressivi di quelli che erano stati sopraffilati con un colore più o meno simile. Gli orecchini, più la collana, più l'anello intonati, una fede d'oro rosso larga, spessa, bombata e come fusa nel grasso di un vecchio anulare. Il tweed sformato, supremamente elegante, e il principe di Galles nuovo fiammante e ancora rigido. Il nodo da cravatta preconfezionato, montato su una farfalla di celluloide. Il cappotto rivoltato, la calza di seta riammagliata e quella che si smaglia e che si smagliava già ieri, la maglia fermata con lo smalto da unghie, ieri incolore ma oggi decisamente sudicio, il rammendo cosiddetto invisibile, le suole di para color miele e le loro sorelline povere di liquirizia Woodmill, il falso Burberry's di Fashionable, la guaina che quella lì si tirerà sul sedere alzandosi. I calzini di filo bianco immacolati, ben tirati, troppo ben tirati, tanto che il polpaccio fa un cuscinetto sopra l'elastico. Stringhe scompagnate, un colletto di Astrakhan talmente liso nella piegatura che il cuoio nero e calvo ha l'aria di essere lucidato a cera. La giacca di un tailleur rifatta da una giacca da uomo. Una bella camicettina bianca sotto un golf verde bottiglia fatto in casa con una gonna di jersey grigio. Un basco blu sotto cui si vede a destra un fermaglio nei capelli e naturalmente dei bottoni. Bottoni sul punto di staccarsi, bottoni diventati troppo piccoli per occhielli slabbrati, due bottoni di madreperla con le cuciture incrociate anziché parallele come i loro gemelli. E soprattutto un bottone, un grosso bottone di bachelite verde e pistacchio. Tagliato a losanga come un diamante, troppo pesante per la seta artificiale del paltoncino nero che dovrebbe chiudere in vita e che balla ogni scossa come il pendaglio del Marajà nel giro del mondo in 80 giorni. Oh, per poco Alex non dimenticò di cambiare Châtelet. Anche il metrò non lo aveva preso da un pezzo, in pratica da quella coglionata dei depossedè. Agli inizi c'era stata la piccola Talbot di Maddy. Poi il periodo dei taxi e alla fine la Citroën della ditta, la Citroën maschere con il suo autista Luca, un po' fattorino, un po' lucidatore di parquet, un po' aggiustatore di valvole che saltano, un po' troppo chiacchierone Luca, ma un bravo uomo. Beh, insomma, non un cattivo uomo, sicuramente un po' corrotto, anche lui. Un'altra recluta di Nicole, Luca. Completamente fagocitato dalla signora Victoria, Luca. Va a sapere se d'ora in poi sarà lui a portare in giro la nuova padrona nei giorni di consiglio di amministrazione. La triste, scialba, noiosa Lillian Ziegler, nata Leblanc, quella birichina di Lili. Ma bravo, Luca, lui che non fa mai lo sforzo di sollevare il berretto a scacchi. A proposito, non aveva notato berretti nel vagone. O non aveva guardato bene, oppure non era all'ora giusta per i berretti. Nell'interminabile corridoio delle coincidenze, però, Ne contò quattro. Alex camminava lentamente, a lunghi passi. Mise qualche soldo nella ciotola di un mendicante che cantava Ramona, con gli occhi chiusi dietro le lenti blu cerchiate di acciaio. Con calma si tirò fuori i soldi di tasca, si abbassò verso la ciotola. Ascoltò qualche battuta per fotografarsi nella mente ogni cosa, dagli stivaletti da fantaccino al feltro ammaccato, bucherellato dalle tarme, accartocciato, nero verdastro, mordorato, ammuffito, ai pantaloni da caporeparto di grandi magazzini a righe bianco sporco su uno sfondo grigio topo di fogna, fino alla giacca a doppio petto a sei bottoni, infilata sulla pelle nuda, senza bottoni, stretta in vita da un cinturone da Boy Scout. Si allontanò fischiettando Ramona. Era tanto che non aveva sentito neanche Ramona. Risaliva ai tempi delle belle arti, a prima delle coglionate, insomma. Prima di avviarsi per le scale che portavano ai binari, si fermò e fu sul punto di tornare sui suoi passi per controllare quello che avevano visto i suoi occhi. Poi si disse che forse il cieco non era poi così cieco e che rischiava di offenderlo tornando a guardarlo sotto il naso. Si disse anche che non erano stati ad aspettare lui per girare Boudou sauvé des eaux, Boudou salvato dalle acque. Sfortunatamente non l'avevano aspettato neanche per girare l'Atalante. Senza di lui il corteo nuziale nero correva sugli scogli, senza di lui l'abito di raso disarmante con la sua falsa eleganza e lo sconvolgente velo di tulle bianco troppo corto e troppo lungo com'era. Senza di lui. E per sempre. Era morto ora, quel tizio che aveva fatto l'Atalante, era morto da poco, senza aspettarlo. Non poteva mica sapere che sarei arrivato, mormorò sottovoce Alex, scendendo le scale e varcando appena in tempo la porta automatica. Dopo aver liquidato il passato, approfittando del cambiamento a Châtelet, ad Alex non rimaneva più che da costruire l'avvenire tra Châtelet e Pyrénées. Più in particolare l'avvenire immediato, e cioè che cosa raccontare a Sonia e a Olga e come raccontarglielo. Era stato un gesto perfettamente naturale, dopo aver richiuso la porta di Viale Chateaubriand, prendere un biglietto di metrò per Rue de la Mare. Non automatico, naturale, come si torna presto a casa ad annunciare la buona novella. Ma adesso, a qualche versta dalla stazione Pirenè, cominciava a chiedersi se la notizia che recava sarebbe stata accolta nella maniera entusiastica che dava per scontata dalle sue due beneamate stacanoviste del lustrino. Non capiranno niente quelle poverine se gli sbatto in faccia la verità. Bisognerebbe mascherargliela in qualche modo, si diceva. Le amava con tutto il cuore, quel giorno più che mai, e lui, che pure le vedeva quasi tutti i giorni, si inteneriva all'idea di rivederle di lì a poco. Avrebbe incontrato i loro begli sguardi azzurri, creduli, puerili, sempre un po' interrogativi e diligentemente tesi a capire tutto, il lavoro da fare come le parole nuove. E in quegli sguardi non voleva leggere la paura, come era già capitato una volta o due, né lo sgomento, né l'angoscia del domani, né l'amarezza di vederlo disprezzare quei lavori di ieri che oggi ripudiava. La sua verità non era adatta per loro. Per loro ce ne voleva un'altra, altrettanto vera, ma più semplice e rassicurante. Cercava la formula, il tempo incalzava, scese alla stazione successiva e trovò la formula. Ho buttato la mia tonaca alle ortiche, ma non la vostra. Io le lascio, ma voi mi tenete, io vi tengo e voi li tenete e loro vi tengono e non finirete mai con tutto il lavoro in più. Ecco quello che avrebbe detto. Saltò dal treno in corsa, tale era la fretta di arrivare. Aveva dimenticato una sola cosa, Alex, ma aveva delle scuse perché era la cosa di cui nessuno parlava mai, di cui nessuno aveva mai parlato, nessuno, tranne la vecchia Anita, una volta, una sola, erano ormai anni, quando le aveva chiesto dove si nascondessero e chi fossero quelle misteriose lavoranti di Femina Prestige che avevano realizzato in maniera così, così perfetta il vestito di Maddy. Lei era arrossita e si era lasciata sfuggire come in segreto che la signora Olga era la cognata della signora Jean. Ma non sono affari nostri! L'aveva capito talmente poco a quell'epoca, il suo cuore e la sua testa erano talmente pieni d'amore e di progetti, che aveva appena ascoltato Anita e si era ricordato solo l'indirizzo di quelle due donne e i loro nomi riuniti, Sonia Olga, Onia Solga, come a volte le chiamava per farle ridere. Non avevano mai menzionato la ditta per cui lavoravano se non con la sua etichetta commerciale o il banale vocabolo i padroni. Si ricordava vagamente che una di loro era vagamente imparentata con Victoria, ma sarebbe stato incapace di dire se fosse Sonia o Olga. E quando incontrava Stepan, era al marito di Olga, al padre di Zazà e all'amico di Elia che augurava il buongiorno, non al fratello di Janek. Ecco quello che aveva dimenticato Alex. Mentre scendeva lungo Rue de la Mar, fischiettando Ramona e ripetendosi il discorsetto che aveva messo a punto. E fu pensando all'effetto che avrebbe fatto l'indomani l'enorme corona mortuaria con su stampato a lettere d'oro su moire viola maschere bergamaschi che spuntò il cartoncino dalla porta di casa Bonnet. Aveva sempre odiato quell'insegna, che era un'idea di Maddy. Aveva faticato da matti per farle ammettere che non veniva da Baudelaire. Lei l'aveva presa male e prima del fatale «È perché io sono figlia di minatore» che le vedeva spuntare nello sguardo. L'aveva stretta tra le braccia, aveva giurato che le diceva solo la verità, avevano fatto l'amore e l'insegna era stata mantenuta. Le faceva talmente piacere a Maddy. Ora, con il distacco e tutto quello che sapeva, gli veniva in mente che potesse essere stata una trovata della povera signora Leblanc, che un giorno, rileggendo il povero Verlaine sotto le fronde del suo parco solitario di Trois, l'avesse annotata, poi suggerita ad Augustin che l'aveva portata a Parigi. «Giù le maschere!» mormorò, un po' frustrato perché non faceva ridere che se stesso, mentre strappava il cartoncino a pezzetti che disseminò in fondo alla tasca. Poi bussò tre volte, come al solito, alla porta ormai priva di ogni ragione sociale. Sonia e Olga cominciarono a porsi delle domande quando Alex le ebbe pregate, sorridendo, di togliere la foto di Maddy dalla cornice dei nostri. Anche la cornice dei nostri era scesa, come il resto, in casa Bonnet. Nessuno la guardava mai, ma se fosse mancata sarebbe mancato qualcosa allo scenario del loro lavoro quotidiano. Come non molto tempo prima, al secondo piano, la cornice troneggiava al centro del caminetto. Sonia e Olga avevano manipolato spesso i quattro fermaglietti d'ottone che fissavano il fondo della cornice alle bacchette di mogano della montatura. Era un'operazione minuziosa che veniva compiuta un po' come una cerimonia. Quando si smontava la cornice dei nostri era sempre per introdurci un nuovo prezioso ricordo, mai per escluderne uno svalutato. Loro non avevano ricordi svalutati. Quella che Alex chiamava la foto di Maddy, loro invece l'avevano sempre chiamata la foto del bel vestitino e non l'avevano mai designata in altro modo ai tempi in cui la guardavano ancora. Non era più capitato da un pezzo. Ma contemplandola di nuovo, dal momento che vi erano costrette, non vedevano come mai potesse aver perso le virtù per cui in passato era stata prescelta per la cornice dei nostri. Ma siccome Alex aveva l'aria di tenerci tanto, per fargli piacere, tolsero l'immagine che Olga ripose nel cassetto della macchina per cucire. Ora c'era come un buco bianco a sinistra della cornice, un gran vuoto rettangolare che bisognava colmare, cosa che fecero ridisponendo tutte le altre fotografie che scivolavano come carte tra le dita di una cartomante. Certe ricomparvero da sotto altre che le coprivano completamente o parzialmente, ma da tanto di quel tempo che erano state dimenticate. «Chi è questo qui?» chiese Alex, chinandosi sulla foto di un uomo che tendeva la mano verso l'obiettivo senza riuscire a nascondere un viso sorridente e sfregiato. «È Valodia», disse Sonia dopo una lieve esitazione. «Un cugino», precisò, sistemando i fermagli d'ottone della cornice che riportò sul caminetto. «Ora voi mi fate un cafferino e io vi spiego», fece allora Alex, come la primissima volta che era venuto. Loro tacevano. Lui aveva parlato a lungo, aveva bevuto due tazze di caffè, avevano seguito a fatica quello che diceva, prima di tutto quella storia di tonaca che buttava alle ortiche, che loro invece non la buttavano. Ma non era un frate, Alex, e loro non erano monache. Poi quelle frasi, io le lascio, loro vi tengono, ci si lascia, non ci si tiene, ma si resta insieme. Oh, era davvero troppo complicato. Avevano ben sentito che stava succedendo qualcosa di grave quando aveva insistito per far scomparire la foto del loro bel vestito, come per cancellare il ricordo e la prova di quello che sapevano fare, di quello che avevano saputo fare ancora prima che fosse diventato il loro vero mestiere. Se era finito, bisognava dirlo, ma non fare così perché non era carino e lui doveva essere proprio infelice per mostrarsi tanto poco carino. Aspettava che dicessero qualcosa, ma loro non dicevano nulla. Olga si alzò, andò a verificare un particolare che aveva creduto di notare quando aveva aperto la porta. Ha perfino già tolto il cartoncino, disse sottovoce in Yiddish a Sonia, senza guardarla, risedendosi attorno al piccolo tavolo da cucina dove si erano messi tutti e tre. Se parlate alle mie spalle non ci capiremo, le rimproverò Alex, sorridendo. Non ci sarà più da capirsi, Alex, ora che lei ci ha fatto tornare rifinitrici, disse Olga scrutandolo. Non era la paura né lo sgomento tanto paventati che leggeva in quello sguardo, era la rassegnata tristezza di chi non è veramente sorpreso al sopravvenire di una sventura, solo un po' stupito che l'ora sia suonata un po' prima del previsto. Chi è lei? E perché tornare rifinitrici? Chiese Alex, che non capiva niente, a parte il fatto che cominciava a capire che anche loro non avevano capito niente. Olga non fece neanche la fatica di rispondere. Chi è lei? Che vuol dire? Ripeté dolcemente Alex. Lo sa bene, rispose Sonia, che fino a quel momento non aveva detto nulla. No, Sonia, non lo so, si spazientì Alex. Sonia guardò Olga. Olga guardava il tavolo. Allora? Fece Alex. Ci fu un altro breve silenzio, poi Sonia si decise. Lei, sono loro, beh, è la moglie del fratello di Stepan, lei che ci fa tornare rifinitrici, come da principio, alla casa di partenza, insomma. E per farsi capire meglio, Sonia aveva rifatto i gesti e ritrovato le intonazioni di Maurice e di Zazà, certi giovedì piovosi, quando erano piccoli e si contendevano il primo posto intorno ai giochi, le cui regole le sfuggivano completamente. È così. Nella casa di partenza, come da principio, disse Olga, che aveva alzato la testa per assentire. Allora, con loro grande sorpresa, Alex scoppiò a ridere. Ebbero la pazienza di aspettare che si fosse calmato, per il che ci volle qualche secondo. Poi Olga gli chiese con molta dignità che cosa ci fosse di tanto divertente in quello che era successo. O forse era quello che avevano detto loro? Loro dicevano come potevano. Ah, tutto, rispose lui, tirandosi fuori di tasca un fazzoletto per asciugarsi gli occhi. Tre frammenti del cartoncino strappato finirono silenziosamente sul pavimento. Sonia li raccattò e ricostituì un pezzo del puzzle nel cavo della mano. E questo? Anche questo è buffo, disse mettendoglielo sotto il naso. È la bella foto del nostro primo vestito da travestitrici che ci costringono a levare per farci tornare rifinitrici a Femina Prestige. Anche questo è buffo. Olga aveva parlato talmente forte che le vene del collo le si erano gonfiate. Aiuto! Affogo! A me la terra, i muri mi abbandonano! San malinteso, prega per me! Urlò Alex. Era la prima volta che lo sentivano gridare. Erano esterrefatte. Ci fu un silenzio di piombo mentre Alex le guardava una dopo l'altra. Bene, allora si ricomincia da capo. Ora vi spiego. Aveva ritrovato il suo sorriso di tutti i giorni. Ora si spieghi, ma per una volta tanto, per favore, Alex, si spieghi con parole che si capiscono, non con tonache di frati, come poco fa che non si è capito niente. Disse Olga andando a riempire la caffettiera per caffè fresco, ancora prima che lui l'avesse chiesto. Beh, vi spiegherò senza tonache, ma prima voi dovete spiegarmi come si fa per essere rifinitrici da principio nella casa di partenza dell'arrivo, va bene? Aveva imitato talmente bene il loro accento che furono loro a mettersi a ridere. Poi Olga si risedette dopo aver posato la piccola caffettiera sul tavolo e per Alex raccontò l'arrivo. L'arrivo sotto le grandi vetrate della Gare de l'Est. Raccontò anche la partenza prima dell'arrivo e raccontò anche di prima della partenza, raccontò di Pietlura in Polonia. Allora Sonia raccontò di Pietro ora in Ucraina. E Sonia raccontò del suo arrivo prima di Olga sotto le grandi vetrate della Gare dell'Est. Allora Alex penetrò in un mondo che gli era anche più estraneo di quello con cui aveva ripreso contatto durante il suo viaggetto di poco prima nel metrò, un mondo quello che non aveva dimenticato, aveva sempre ignorato che esistesse. Poi Olga raccontò di nuovo l'arrivo sotto le grandi vetrate, il fagotto talmente sporco, il suo ventre talmente grosso, la polvere, il berretto di Stepan, il panico di Janek, la gentilezza di Anita e l'assenza di Nicole, e la nascita di Zazà e l'assenza di Nicole, e i primi occhi finti di Capretta e la cappa di Zibellino e la morte di Pietlura e la collera di Stepan e il bel vestito e la loro lettera e sempre l'assenza di Nicole e l'assenza di Victoria Jean ora. E più Olga parlava dell'assenza di quell'assente, più Nicole Victoria cresceva di importanza. E più Alex si rendeva conto che l'ombra della sconosciuta non aveva mai smesso di aggirarsi in quella casa, pur non essendovi mai venuta. Invisibile, era lì dal primo giorno, immensa e onnipotente. Era lei a far rotolare i dadi che fanno avanzare oppure rimandano alla casella di partenza coloro ai quali non si perdonava di essere venuti e ancora meno di venire da dove venivano. Era questa la grande rivelazione per Alex. E mentre Olga evocava la sua ombra temibile, inesorabile, lui rivedeva il viso spaventato della vera Nicole, come lui l'aveva lasciata appena un'ora prima. Nicole nello specchio tra le sue due complici, presa con le mani nel sacco e schiaffeggiata dalle sue dimissioni. Nicole senza scampo, minacciata dal testamento maligno, col rischio di ritrovarsi anche lei alla casa di partenza. E la sproporzione tra quella formica indigente e l'onnipotente leonessa che descriveva Olga era tale che scoppiò di nuovo a ridere e Olga smise di parlare. Quanti anni ha Zazà ora? Chiese Alex. 13 anni e mezzo, dissero insieme Olga e Sonia. Allora sono 13 anni e mezzo che dura? Incredibile, esclamò Alex. Cosa? Chiese Olga. Che dopo 13 anni e mezzo voi non abbiate ancora capito che senza di voi e il vostro lavoro lei non sarebbe niente. La signora Nicole, Victoria Jean, niente, capite? Senza di voi, senza di me, lei non è più niente. Me mi ha perso e ora vedrete come si aggrapperà a voi. Senza di voi a maschere sono fregati, mentre voi esistete senza maschere. È per questo che ho strappato il cartoncino sulla porta. Voi siete libere, lo capite che cosa vuol dire? Libere di dire di sì, libere di dire di no. Voi siete a casa vostra, in casa Bonnet, e lavorate per chi volete voi. Ecco quello che volevo spiegarvi. Ora, per quell'altra storia, quella della foto, non è il bel vestito che non volevo più vedere, è la bella signora, beh, la bella faccia della signora. E questo non ve lo posso spiegare, sarebbe troppo lungo, complicato e mica tanto allegro. È per causa sua che li lascia? Azzardò Sonia. Un po', ma non soltanto, fece Alex. Suonarono alla porta. Si guardarono e Sonia si alzò per andare ad aprire. Alex riconobbe la voce dell'autista Luca. Sonia tornò con una busta in mano e Alex sentì il motore della Citroen che si rimetteva in moto. Cosa vi dicevo? Hanno fatto presto. Alex rise di cuore, ma il suo sorriso cadde nel vuoto. Era pur sempre la paura che si leggeva negli occhi di Sonia e di Olga, nonostante tutto quello che aveva detto. Avevano paura, una paura così intensa che ne fu contagiato. Sonia teneva la busta in mano senza aprirla. Gliela prese, l'aprì, scorse in fretta la lettera e senza lasciare intuire il suo profondo giubilo, le pregò di accomodarsi sulle sedie. Tranquillamente cominciò la lettura, come si legge una storia dei bambini. Signore, la direzione è lieta di informarvi che in seguito a una riorganizzazione amministrativa, la nostra ditta è finalmente in grado di proporvi il contratto in esclusiva a titolo di tagliatrici, sarte e ricamatrici che da tempo desideravamo sottoporre alla vostra approvazione. Approfittiamo inoltre della presente per comunicarvi che il signor Alex Grandi non fa più parte della ditta e che quindi in avvenire non sarete più in rapporto con lui. Ma come per il passato, Maschere Bergamaschi rimane più che mai una grande famiglia. Buon lavoro, firmato per la direzione illeggibile. Guardavano Alex, che si era posato la mano sul cuore per declamare le ultime righe. «Perché a un tratto ci parlano della famiglia?» disse Olga dopo un po'. «È la prima volta!» «Ma non vi parlano affatto della famiglia, Olga. Vi parlano della grande famiglia. Quando va male, i padroni parlano sempre della grande famiglia ai loro impiegati. A tutti i loro impiegati, anche a quelli che sono della famiglia, quella vera. Perché la vera famiglia non ha niente a che vedere con la grande famiglia. Voi non vi vogliono nella famiglia, ma hanno bisogno di voi nella grande famiglia. Allora la signora illeggibile vi scrive a nome della grande famiglia, perché io non vi porti un'altra. Voi che siete della mia vera famiglia, benché non faccia parte della vostra famiglia, non ci vuole mica l'abaco per capirlo». Aveva cominciato la tirata con voce lenta, poi, via via che vedeva crescere l'incomprensione negli occhi di Olga e di Sonia, il suo eloquio si era accelerato finché non vi vide accendersi il barlume che gli piaceva tanto, quello del riso incipiente. «Ah, è contento? Noi non abbiamo capito niente», disse Sonia cercando di trattenere il riso. «Proprio niente», fece Olga, lasciando irrompere il suo. «Beh, allora vi spiego», sospirò Alex. «Ah no, no, no!» Infine insieme scoppiarono a ridere. Nessuno di loro aveva sentito il rumore della chiave. «Beh, è più divertente qui che a scuola», dichiarò Zazà, entrando nel laboratorio, seguita da Barsky, il quale aveva approfittato dell'apertura della porta alla quale esitava a suonare da un buon quarto d'ora. La scomparsa del cartoncino Maschere Bergamaschi aveva frenato il suo slancio, presentiva grandi rivolgimenti e con il cuore che batteva si chiedeva se non arrivasse troppo tardi. «Allora, che c'è di nuovo?» disse con tono gioviale. «Oh, un sacco di nuovo, mio caro Isidor!» gli rispose Alex, sorridendo. «E lei?» «Io ora sono nel cinema!» dichiarò Isidor con la sua voce più naturale. «Domani bisognerà che ce lo racconti», disse Alex.